È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La zanzara di Giuseppe Cruciani. Povera patria, schiacciata dagli abusi del potere, di gente infame che non sa cos'è il pudore. Si credono potenti e gli va bene. Oggi gran parte del PDL scatenato contro un'intervista di Bersani, il segretario del Partito Democratico, a Repubblica. Cosa ha detto Bersani? Sentite. Non si tratta solo di mandare a casa un governo. Dobbiamo superare una fase lunga 16 anni, non due. Dobbiamo liberarci di Berlusconi. Dobbiamo liberarci di Berlusconi. Per questo non vado troppo per il sottile e mi rivolgo a tutti. Se è vero che rischia la democrazia, se la posta in gioco è quella, ognuno si assuma le proprie responsabilità. Accorciamo le distanze tra i partiti che vogliono archiviare questa stagione ed evitiamo veti reciproci. Ma qui siamo nel campo del politichese, le due frasi sono queste: dobbiamo liberarci di Berlusconi e la democrazia che rischia. Non cambierà. Alfano, ministro di giustizia. La dichiarazione di oggi del segretario Bersani su Repubblica, nella sua chiarezza, è scandalosa. Propone un governo guidato da chi ha perso le elezioni contro chi ha vinto le elezioni ed usa un linguaggio di una violenza inaccettabile. E anche Brunetta, Bersani gratuitamente volgare e violento. Vabbè, è uno dei temi del giorno. 800 24 00 24, questa è la Zanzara, un altro mondo, come sapete. SMS 349 238 6666, la Zanzara è radio24.it. primo ospite della serata, Gabriele Albertini, buonasera, europarlamentare, come buonasera, sta? Buonasera dottor Cruciani. Come e sta? Buonasera a chi ci ascolta. Dove si trova, dottor Albertini? Sono a Milano, nel mio ufficetto. A Milano? A che ci fa a Milano oggi? Che giorno è? Il 5 di... Il 6 di agosto? Vado in vacanza domani. Ah, domani, oggi... Ho sbrigato un po' di faccende. Dove vai in vacanza, se posso essere discreto? In Carinzia, 2 settimane. Ah, e poi fantastico. Qualche giorno a Vienna. Carinzia, fantastico. Non c'è molto freddo, non c'è molto caldo, si sta bene, insomma, aria spero buona. Spero di stare bene, sì. Senta, Bersani è stato così violento, secondo lei, come dicono? Beh, Bersani è stato il leader del principale partito di opposizione, ha una tradizione lontana, anche se un po' misconosciuta o modificata, è stato comunista, quindi insomma questi metodi molto aggressivi sono stati ampiamente un suo bagaglio culturale, direi che ha esagerato. Però un consiglio, un suggerimento, in qua mi inserisco con certe mie affermazioni che forse sono state anche travisate, mi consento di proporre ai nostri dirigenti, ai dirigenti del nostro partito e anche al nostro... Quale partito, dottor Albertini? Il PDL. Io appunto glielo chiedo perché oggi leggo... È l'unico partito a cui mi sono iscritto da quando sono nato, da pochi mesi, e quindi cerco di coltivare una buona abitudine di fare qualche proposta utile. Il consiglio in questo caso qual è? Il consiglio è quello, se si chiama Popolo della Libertà, di ammettere la libertà di espressione al proprio interno. Poi c'è una maggioranza che prevale, una minoranza o più minoranze che invece devono cedere il campo al parere dei più, però una discussione, un confronto, un dibattito credo che sia il sale della democrazia, e un partito come il nostro che si ispira a questi valori deve ammetterlo. Fini non voleva, a mio modo di vedere, la rottura, ma il confronto. Lei dice? Io dico perché prendo per buone le affermazioni che sono state fatte. Non ha tirato un po' troppo la corda lui e alcuni suoi esponenti, ma, cosiddetti finiani? Lo stesso giorno in cui si riuniva il Consiglio Nazionale, che con 33 voti a 3 ha sostanzialmente espulso dal partito il cofondatore senza ascoltarlo e ha mandato ai probiviri tre membri della sua compagine, per così dire, o a lui vicini, aveva fatto un'intervista al Foglio dove lasciava aperto il campo a un dialogo, a una possibilità di accordo e a quella evoluzione in senso carismatico democratico che è anche nei miei auspici. Poteva fare un passo indietro Berlusconi, secondo lei? Cioè, poteva concedere qualcosa? Io avrei gradito un passo avanti, cioè conservi la sua leadership carismatica, che nessuno è un valore per tutti, che nessuno vuole toglierli o attenuarli, ma proprio perché ha questa leadership non ha bisogno di cancellare il confronto e di accettare le scelte dal basso del ceto dirigente, perché è questo che in un partito che ha quasi il 40% di consensi e quindi rappresenta vari interessi, valori eterogenei, tante anime, luoghi diversi del paese, è così complesso il meccanismo che non può essere interpretato solo da un gesto o da un'opinione o da una scelta di un uomo solo, ancorché carismatico. Quindi perché non coniugare le due cose? Era questo che secondo me Fini voleva e andava ascoltato. Lei ci ha parlato con Fini, no? Sì, ci ho parlato, sono stato invitato a un colloquio a Roma e sono andato a discuterne e questo è quello che mi ha detto. Io, fino a prova contraria, credo, do la fiducia alle persone che tendono a esprimersi con sincerità. Ricorderà quel bel proverbio latino: simul anima fides, unde abiteo nunquam redit. La fiducia è come l'anima, ritorna una volta che è partita, ma prima che parta bisogna appunto che avvenga la morte. E intanto vi do una notizia: le prime convocazioni nazionale di Cesare Prandelli appena diramate, come tutti si attendevano, come era largamente previsto, sono stati convocati sia Cassano che Balotelli. Questa è la notizia forse più attesa per gli appassionati di calcio e non solo. In questo colloquio che lei ha avuto con Fini ha portato a qualcosa, perché oggi leggo Repubblica un titolo: anche Albertini lascia Silvio, da berlusconiano di ferro a sostenitore di Futura Libertà. Lei che fa? Lascia il PDL? Ma, aderisce? Questo titolo non è assolutamente attribuibile a chi ha scritto l'articolo, o più ancora forse al titolista, che come mi dicono è sempre diverso da quello che fa l'articolo, e certamente non è mio. Anzi, ribadisco, io non sono né un uomo di partito né un uomo di parte. Però è iscritto al PDL. Sono iscritto al PDL ed è l'unico partito a cui mi sono iscritto da quando sono nato e ho 60 anni quest'anno, quindi vuol dire che non sono tanto attento né fazioso e orientato a questo genere di scelte, quindi non sono né finiano né, se si vuole dire, berlusconiano in contrapposizione a Fini. Credo in un sistema di valori, credo in quello che stiamo facendo al governo in Europa, sono coerente con queste scelte. Mi sarebbe piaciuto, ecco perché ho solidarizzato, non tanto con Fini come leader antagonista, che non è e non vuole essere, a mio modo di vedere, ma con quello che esprime. Poco fa ho cercato di spiegarlo: la libertà interna, il confronto, il certo dirigente scelte non nominato, il codice etico, eccetera. E questo è quanto, tutto qui. Dunque lei non lascia il PDL? No, se non mi cacciano. Fini voleva lasciarlo, né l'ha lasciato. Messo fuori. Non c'è un errore che ha fatto Fini in questo frangente? Qualche errore l'avrà commesso pure lui, no? O no? Ma guardi, io non so se si possono considerare errori il fatto di avere chiesto e non ottenuto dibattiti interni, discussioni, incontri, un congresso di partito e quant'altro. Forse può darsi. Questo sì, è stato forse fin troppo insistente nel marcare differenze in pubblico e non so quanto abbia fatto precedere questo passaggio all'esterno a infruttuosi rapporti, questo non sono in grado di dirlo, gestiti invece privatamente nei luoghi in cui potevano avvenire. Anche perché è presidente della Camera. E poi, esatto. Quindi, senta, ma le ha chiesto di entrare in Futura Libertà, Fini? Le ha chiesto questo? No, non mi ha chiesto questo, perché io l'ho visto prima che accadesse la sua espulsione, per così dire, e anzi ho riscontrato, ecco perché ribadisco il concetto, una persona seriamente motivata e convinta non nel rompere, ma nel rivitalizzare dall'interno un partito che rischia l'implosione al momento in cui il più tardi possibile il leader, nessuno è eterno, o perderà il suo carisma perché si stufa di essere il presidente, sì. oppure succederà qualcosa come a tutti noi. E questo non è uno scenario che può limitarsi alla vita fisica del grande statista, deve proseguire perché è un valore per tutta la nazione quello che ha fondato. Allora andiamo a sentire il traffico, poi qualche altra domanda a Gabriele Bertini, che come sapete è stato sindaco di Milano, adesso è il ruolo parlamentare, che ci ha detto lui resta nel PDL, non aderisce a Futuro Libertà, al contrario di quello che lasciavano capire alcuni titoli di Repubblica di oggi. Traffico. La Zanzara. Beh, ormai ci sono più di una dichiarazione al giorno di politici, naturalmente tutti del centrodestra, che vogliono puntare dritti alle elezioni. Io ricordo ancora la frase di ieri di Bonaiuti, che ha spiegato come Berlusconi ha parlato ai deputati, estote parati dal latino, prima citato da Albertini. Sentiamo. Il Presidente del Consiglio dice: voi state pronti. Ieri diceva una frase latina, estote parati, state pronti ad un eventuale voto, perché evidentemente una maggioranza così importante, un governo di questo tipo, non può essere bloccato negli agguati parlamentari. E poi Mastella, ieri qui alla Zanzara, Berlusconi se non si vota è fottuto. Se si vota il prossimo anno, se non si vota vuol dire che Berlusconi è fottuto, cioè nel senso che superando le colonne d'Ercole dell'autunno, con le impazienze della Lega a quel punto, e perdendo la maggioranza al Senato, c'è un governo, diciamo, che potrà durare anche un paio d'anni con l'eliminazione di Berlusconi. Bene, Gabriele Albertini, collegamento dal suo ufficio di Milano, europarlamentare del PDL. Lei si iscrive al partito di quelli che sostengono che ormai, insomma, la situazione è talmente sfibrata che inevitabilmente si andrà a votare, e comunque si deve votare senza un governo di transizione se cade, se questo governo entra in gravissima difficoltà, oppure no? Ma guardi, io sono convinto che questo governo abbia ancora la maggioranza, ha dimostrato di poterla avere, di poterla proseguire, anche il gruppo dei cosiddetti finiani. Lei è uno dei pochi che la pensa così, però. Sì, sono uno dei pochi, però diciamo fino al verificarsi di fatti contrari può funzionare. La dichiarazione di lealtà nei riguardi del programma elettorale dei finiani non è stata smentita neanche nelle ultime vicende, quindi può proseguire. Tenga conto che siamo in una condizione economico-finanziaria di una crisi mondiale e un governo balneare un'infrazione, diciamo, della durata della legislatura in questo frangente può produrre degli effetti sull'economia del nostro paese, sui nostri redditi, sulla nostra industria, sul sistema finanziario gravissimo. Ma un governo, tecnico, lei lo vede o no? Si ricorda cosa diceva qualcuno? Che un vero statista non deve pensare solo alle prossime elezioni, ma alle prossime generazioni. Ecco, questo è il momento in cui il nostro leader, come certamente è, se è uno statista, deve forse cercare di guardare oltre le prossime elezioni e pensare, come sta facendo, ma può ancora corroborare questo suo indirizzo alto, questa sua visione lungimirante, al bene della nazione che governa. E in questo momento non credo che il bene sia una rottura della possibilità di governare da parte di un governo che ha ancora la maggioranza per poterlo fare. Senta, quando le attribuiscono un'altra frase, Repubblica, per lui, cioè per Berlusconi, il confronto è eresia. E come fa a stare in un partito ancora dove pensa che il leader non si vuole confrontare? Ma è vera questa frase? Questa è una cosa che avrei voluto correggere. Io non l'ho attribuita a Berlusconi, ma l'ho attribuita ai pretoriani che sono vicini a lui. Cioè in particolare chi? Adesso non faccio nomi, però il ceto dirigente del partito, veda lei l'organigramma. I coordinatori, dice lei? Insomma, questi sono persone che hanno spesso, è tipico di questi ruoli, no? Hanno spesso il desiderio di anticipare, sopravanzare, compiacere, addirittura interpretare interpretare, magari appesantendolo, il pensiero del leader. E questo è diciamo una condizione base della loro crescita professionale. In tutti i partiti carismatici il ceto dirigente ha questi atteggiamenti. Dovrebbe azzerarla la dirigenza, no, Berlusconi? No, non so se azzerarla. Certo, diciamo che Berlusconi, se fosse, come spero, nella condizione di diciamo fare delle riflessioni su quello che gli viene proposto e suggerito e quello che invece sono i dati di realtà di riscontro, forse potrebbe evitare, come in questo caso è avvenuto, di commettere degli errori, perché questo è stato un errore, quello di aver escluso Fini, 33-3, una grande vittoria nel Consiglio nazionale, se si chiama così, e una invece pericolosa rottura nell'equilibrio parlamentare, perché ha dato origine a un gruppo separato che, come si può vedere, al Senato resta come maggioranza anche con questa divisione. Però alla Camera? Alla Camera no, e quindi non è un bello scenario. Ho capito. Senta, volevo chiedere un'altra cosa su una frase pronunciata da un senatore del PDL di recente, il senatore Musso. Troppi scandali e troppe zoccole. Ha detto proprio così. La sottoscrivo in pieno. Ah, è così anche per lei? Sì, sì, assolutamente. Ma quando parla di troppe zoccole a chi si riferisce anche lei? Beh, adesso non si parla delle signore, naturalmente, se non per parlarne bene. Mm. No, ma mi hanno insegnato così almeno, e meno che meno alla radio. No, certo, per carità, non volevo estorcere qualche nome quando si riferisce a troppe zoccole. Però chi è che ha messo troppe zoccole all'interno di un partito? Se qualcuno ha messo all'interno di un partito, comunque chi è lei che... Lei mi vuole fare una maieutica malevola che non voglio fare. Il pensiero che lei ha è quello di Musso, da quello che capisco non è troppo lontano dal nostro ed è anche il mio. Però c'è un garbo e una buona educazione che permette di tenere... In fondo la buona educazione è la prima forma di ipocrisia, è un'ipocrisia ammessa. Io non faccio nomi, però credo che chi ci ascolta e anche lei che sta parlando con me, io con lei, sì, abbiamo capito a chi ci riferiamo. Quando, insisto ancora perché il tema è interessante, quando lei parla di troppe zoccole si riferisce anche a Berlusconi? Io sto parlando del nostro partito in senso lato. Quindi ci sono delle scelte di ceto dirigente, dal governo agli organi di partito, e alla struttura anche dei governi locali, dalle regioni ad altre realtà, che probabilmente devono avere una registrata. Cioè il processo di selezione del ceto dirigente deve essere ritarato. Se c'è un consenso vero nel territorio, questo deve essere il criterio per cui ci sono delle promozioni o degli avanzamenti. E invece che succede? Non so, conoscenze personali, rapporti diretti, affari fatti insieme, che poi, come si vede, generano scandali e generano diciamo discredito su tutto il partito. E per chi invece è esente da questo stile di vita o da questa condotta, l'essere accomunato in un unico coacervo di malaffare, di persone che occupano il potere per se stesse e non per la comunità, che devono proteggere, presidiare, governare, certo, sì, ma sì, soprattutto a cui devono accudire, beh, questo ci dà fastidio. Il valore dell'onestà, il valore politico dell'onestà è un po' dimenticato. Cioè, secondo lei, per esempio, Caliendo si doveva dimettere? Caliendo è stato un magistrato di grande qualità, è uno dei pochi delle persone di cui si parla, che posso dire di conoscere anche se non a fondo, perché ha lavorato a Milano. Credo che abbia commesso un'imprudenza nell'andare a una colazione, non so se sapesse esattamente chi fossero i commensali, però per un sottosegretario di Stato, ex magistrato, che segue i delicati fatti della giustizia, andare alla colazione con un signore come Carboni lo considero una notevole imprudenza. E dunque si doveva dimettere o no? Questo sulle dimissioni diciamo che vale una scelta individuale, una sensibilità individuale. Certo non ero obbligato a farlo. Io Verdini invece? Desiderato, se fossi stato diciamo vicino alla persona, che qualcuno le avesse potuto suggerire di ammettere che forse andare a colazione con Carboni, sapendo la sua storia, i suoi pregressi casi e la persona che è, non è stata la cosa migliore che potesse fare nella sua condizione. Lui dice che quando è entrato non sapeva nemmeno che ci fosse Carboni. Questa è una spiegazione che può essere accettata e che fino a prova contraria. Mi richiamo al detto latino della fiducia come l'anima. Un'ultimissima cosa, invece la situazione di Verdini è diversa, è incompatibile il ruolo di coordinatore del partito con la frequentazione di Carboni, secondo lei? Beh, guardi, il fatto che frequentasse un uomo come Carboni e che abbia ribadito recentemente che non ci trovava niente di strano mi pone dei grossi interrogativi, così come trovo singolare che faccia una conferenza stampa mentre il ministro Tremonti del nostro stesso partito firma un provvedimento di commissariamento per la banca che ha diretto e presidiato come presidente, credo anche nominando amministratori e membri di fiducia negli organi di controllo, e che la Banca d'Italia ha considerato gestita con gravi irregolarità. Come si è dimesso dal consiglio di amministrazione della banca in rispetto, credo, agli azionisti, se è una società per azioni, forse è una società cooperativa, quindi ai cooperanti. Come si è dimesso con la banca? Lei dice, insomma, in questo caso, più che questa conferenza stampa molto aggressiva e con grande sicumera, nel momento in cui non una toga rossa, ma un ministro della Repubblica dello stesso partito e la Banca d'Italia mi dicono che la banca che ho gestito ha commesso gravi irregolarità, insomma, la sensibilità poteva suggerirgli di astenersi dal fare quella conferenza e forse dal mettersi in una condizione. Non si è obbligati a fare il coordinatore nazionale di un partito. Ho capito. Grazie. Prego. Buona serata, buone vacanze, buone vacanze. Anche a lei, arrivederci. 18:31, noi invece siamo qui alla Zanzara tutta l'estate, ci sentiamo dopo la borsa. La Zanzara. Eccoci qui, 18:35, 800-24-0024, torniamo in onda con la Zanzara. Messaggi 349-238-6666, andiamo dritti a sentire i titoli del TG2. Il deragliamento del treno a Napoli, un morto e più di 30 feriti, di cui due gravi. Si indaga sulle cause. Un testimone racconta: il treno andava troppo veloce. Cresce il prodotto interno lordo, più 0,4% nel secondo trimestre, il dato migliore dal 2007. Bene anche la produzione industriale, che vola a un più 8,2%. La fidanzata lo lascia e un pugile ucraino preso da raptus esce per strada e uccide a pugni una passante. Il marito della vittima deve essere condannato all'ergastolo. Grande attesa per il concerto degli U2 che saliranno sul palco questa sera a Torino. Migliaia i fan in fila già da ieri sera e Bono porta la pizza. Qualche titolo di studio aperto. Deraglia un treno della Circumvesuviana a Napoli, un morto e decine di feriti, alcuni sono gravi, mistero sulle cause, ma i sopravvissuti sotto shock raccontano: il treno andava troppo veloce, abbiamo sentito un botto e poi le urla. Folle violenza a Milano, una madre di 3 figli uccisa a botte per strada, l'aggressore, un giovane pugile, era furioso perché la fidanzata l'aveva lasciato, ha massacrato a pugni la prima donna che gli è capitata davanti. Dopo la Guardia di Finanza, nella sede di AN, rogatoria internazionale per l'appartamento a Monte Carlo. La chiederà la Procura di Roma per acquisire nuovi documenti sulla cessione dell'immobile, abitato dal cognato di Fini, ad una società offshore. Il reportage del nostro inviato. Esodo, weekend a Bollino Nero. Eccoci qui, ascoltatori, 800-24-0024. Giuseppe da Roma, buonasera. Buonasera, Cruciani. Dica. Allora, senta, io... tutte le volte che devo andare a votare mi faccio prendere un po' dal qualunchismo che non ci vorrei andare, però poi ci vado. Ho votato, mi sono atturato il naso e ho votato Prodi a quelle politiche e ho votato la Polverini alle regionali, per cui può capire dove navigo politicamente. Ma che ha detto di tanto strano sto povero Bersani in cielo? Ah, l'intervista di Bersani di oggi, che bisogna sbarazzarsi di Berlusconi. Sì, effettivamente, se uno la vede così non c'è niente di sovversivo. Io, è chiaro che l'ha detto politicamente, no? Non è che ha detto mica fisicamente. Cioè, sì, è anche vero, assolutamente, Giuseppe. Ecco, ha detto una cosa, ha detto che è aggressivo, che è una... Violento, sì. No, la parola inquietante mi ha colpito, inquietante come se volesse far credere chissà che, ma ha detto... Beh, diciamo, Giuseppe, mi scusi, Bersani... immaginando una sorta di fronte nazionale di liberazione da Berlusconi, evoca come al solito il pericolo democratico. Questo è l'unico punto. In realtà non è la prima volta che lo fa, soprattutto negli ultimi mesi. Dobbiamo liberarci di Berlusconi, non vado troppo per il sottile, mi rivolgo a tutti. Se è vero che rischia la democrazia, se la posta in gioco è quello, ognuno si assuma le proprie responsabilità. Ecco, questa chiamata alle armi perché la democrazia è a rischio, uno potrebbe dire, bene, se c'è, quando uno pensa che la democrazia è a rischio, io dico sempre, allora si imbraccia il fucile e si va in montagna. Ma non è a sto livello ormai, io sono convinto, guardi, anch'io mi vorrei liberare De Berlusconi, dica la verità, perché navigo nel centro, come gli ripeto, ma non De Berlusconi come persona fisica, io faccio il geometra. E di cosa allora, mi scusi, che significa liberarsi da Berlusconi? Liberarsi secondo me però, allora, aspetti, glielo dico, utilizzare la parola liberarci... Lo dica. Del berlusconismo, mi sì, ma non esiste il berlusconismo. Esiste, non esiste. Perché i ragazzi sono tutti berlusconi. Non esiste, non esiste. Il berlusconismo non esiste. Tutti che vanno a fare giocatori, tutti, nessuno che c'entra pensa più a lavorare. Io ho 62 anni, sono geometra, c'ho una piccola impresa, la mattina mi devo alzare col camion ancora per andare a lavorare, perché a chiunque vado a chiedere ai italiani... Giuseppe, guardi, dicono, che una buona parte... Ho capito. No, io preferisco andare a tagliare macchine piuttosto che venire a lavorare in cantiere. Ma che c'entra questo Berlusconi? Che c'entra con questo Berlusconi? Perché la mentalità che si viene inculcando in questo paese... Guardi, con si sono scritti... Private. Mi scusi un attimo, Giuseppe, e la ringrazio. Si sono scritte sul berlusconismo delle castronerie da questo punto di vista, sul fatto che ha plasmato l'italiano in un certo modo, delle castronerie che ci sarebbe da scrivere un trattato su quello, sulle panzane che si leggono sul carattere degli italiani che sarebbe stato plasmato e traviato dal berlusconismo. La ringrazio molto di questo intervento. Luigi, provincia di Belluno, buonasera. Buonasera Cruciani. Dica. Finalmente siamo d'accordo. A proposito di cosa? Sa perché? Perché più volte ci siamo sentite e talvolta siamo stati in disaccordo, ma questa sera sono d'accordo con lei. A proposito di che, Luigi? Ha fatto bene Alfano a descrivere come, mi pare ha detto disgustoso. No, violento. Ah, violento, no, ma ha detto anche un altro aggettivo ancora più pesante, insomma. Perché un capo di un partito non deve usare questa terminologia. Lui è un capo di un partito, può dire auspico... che questo governo Berlusconi sia arrivato alla fine, ma insomma questo tono violento proprio non si addice. Ecco, anche se devo dire, dov'è il tono violento secondo lei? Il tono non si può dire perché è un'intervista. Dobbiamo liberarci tra leader di partiti, non si usa questo linguaggio, si deve usare un linguaggio, come si suol dire, un po' più politichese, può dire la stessa cosa. Io credo che ci sono stati anche esponenti del centrodestra che all'epoca, quando c'era Prodi, hanno sicuramente detto dobbiamo liberarci di Prodi. Però, ecco, vede, le dico una cosa e lei stavolta sarà d'accordo pure con me: se gliel'avesse dette le stesse cose D'Alema, Berlusconi non si sarebbe lamentato, perché come lei sa, tra Berlusconi e D'Alema, insomma, Pappa e Ciccia vanno d'accordo, insomma, lei lo sa che Dopo le intese del 94 tra D'Alema e Berlusconi. Ma non mi pare che adesso adesso sono un po' inclinati questi rapporti, però a tutti e due piace. Vabbè, insomma, lei si è un po' scandalizzato anche lei per questa frase, no, dobbiamo liberarci di Berlusconi. Bersani non l'avrebbe dovuto fare, anche perché Berlusconi meritava molto di più. Avrebbe dovuto meritare parole ancora più pesanti. Cioè? Ma non da un capo di partito. Ah, lei dice, non dal capo di un partito. Perché Berlusconi, quando lei dice non esiste il berlusconismo, Cruciani, lei è una persona intelligente. No, secondo me il fenomeno che si chiama berlusconismo non esiste nella società, esiste in politica. Il berlusconismo lei mi insegna. Non lo so, secondo me non esiste, insomma, sono tutte chiacchiere. Lei è un maestro, Cruciani. Non sono affatto un maestro. Lei è un maestro di questo modo di prendere in giro il prossimo. Significa che cosa? Significa che quando si dice il berlusconismo o quando si dice i berluscones, si vuole dire che cosa? Che cosa si vuole dire? Modo, quel certo modo di approcciare la politica, di gestire la cosa pubblica, di avvalersi del potere del governare, farsi le leggi, fare i cavoli propri, per non dire una parola. Capito, ma questo non è questo è un altro discorso, non è? Questo è il berlusconismo, Cruciani. Lei non può dire, lei che è una persona intelligente, io l'ho conosciuta personalmente, lei non può negare che esiste il berlusconismo, ma questa è un'altra cosa. Tra il sentir dire a Bersani dobbiamo liberarci di Berlusconi. E dove siamo? Al mercato. Ma Berlusconi è un signore, è un gentleman, si fa per dire, in realtà. No, no, ma ho capito benissimo il suo ragionamento, Luigi. In latino si dice sus. Come si dice? Lei capisce cosa voglio dire. Guardi che qui abbiamo esperti di latino fra poco. Vabbè, ma lei però lei non l'ha detto. Cioè, vabbè, insomma, lei dice Bersani, siccome è il capo di un partito, non si può permettere di dire dobbiamo liberarci di Berlusconi. Niente, quando lo incontra a quattro occhi gli dà del sus, tradotto in italiano, gli dà del... un'altra cosa, quello che vuole, gli batte la pacca sulla spalla come fa Berlusconi quando fa politica estera ad alto livello, che batte con le pacche sulla spalla. Non può lanciare l'allarme democratico, ho capito. Cruciale, lei è una persona intelligente. No, ho capito, Luigi. Si è deluso col berlusconismo. Ma non esiste il berlusconismo, è un'invenzione. Che significa berlusconismo? Esiste un periodo politico in cui c'è la figura di Berlusconi, ma come fenomeno sociale il berlusconismo è un'invenzione assoluta, è una cosa ridicola. Non esiste, lo si dice sempre in senso negativo, poi nel berlusconismo come un'epoca frivola, un'epoca di lazzi e intrallazzi, la gente che si fa gli affari tuoi. Non è che si dice il berlusconismo come fenomeno sociale, quando si pronuncia la parola berlusconismo lo si intende sempre in senso negativo. Bene, alle 18:44 collegamento con Lago di Como, dove troviamo il senatore Marcello Dell'Utri. Buonasera. Buonasera, come sta? Io sto benissimo. Che cosa fa sul Lago di Como? Cerca altre agende di Mussolini? Mi pare, no? C'è venuto Churchill per cercare le sue carte. È tutto qui. Proprio qui, no? Poi, insomma, è in Svizzera. A Como non c'è più niente. A Como non c'è più nulla. Pare che sia venuto fuori, cioè è nelle sue mani un nuovo diario di Mussolini. Sì. E dunque il sesto sarebbe. Beh, un diario è un'agenda, è l'agenda del 42 che fa, come dire, serie con le altre agende che abbiamo già trovato, che sono dal 35 al 39. 35 e 39, sì. Ne parliamo tra un attimo, si prepari a domande anche come al solito molto ficcanti, spero. Traffico e poi di nuovo sul Lago di Como con il senatore Marcello Dell'Utri. La Zanzara. Allora, abbiamo parlato a lungo anche qui alla Zanzara dei diari di Mussolini, con vari interventi, anche il senatore Dell'Utri una prima volta, però abbiamo sentito anche, per esempio, Donna Assunta Almirante. No, non ci credevo. Non ci credeva nemmeno mio marito, non ci credeva, eppure l'ha avuto vicinissimo, nello stesso palazzo. Giorgio mi diceva che era di una modestia... veramente di una modestia che faceva quasi dispiacere vedere un uomo così in alto, che era diventato, figuriamoci se quello scriveva, ma proprio stava lì a pensare e basta, non ci credo io. Alessandra Mussolini, che è una dei 12 eredi con cui hanno trattato Dell'Utri e la Bompiani, sentite. Ci sono stati anche dei periti, l'hanno letti, l'hanno fatto, poi gli storici devono sempre dire no, non è vero, come i critici d'arte, no? Oppure il Caravaggio è vero e falso. Questi diari sono veri. Elisabetta Sgarbi, con cui abbiamo litigato, io non devo dimostrare nulla. A me interessa un'operazione editoriale che mi sembra interessante, non voglio dimostrare né che siano autentici né che siano inautentici, non devo dimostrare nulla. E poi anche ormai un must, Lele Mora, che dice: ogni tanto leggo dei passi dei diari di Mussolini insieme proprio a Dell'Utri a Lugano. Io cucino e servo da mangiare e mangio. Mentre le persone di grande cultura, di grande spessore leggono, perché per leggere questi diari ci vuole veramente della grande cultura. Senatore Dell'Utri, non ci siamo fatti mancare niente. Va. Lei sento delle cose che sono strane. Per esempio? Ma lo so, la cosa di Lele Mora a Lugano non è affatto vera, non è vero. E allora perché racconta delle balle pazzesche Lele Mora? Ma non lo so, racconta delle cose vere che sono però condite di cose false, perché non ho mai letto a Lugano con Lele Mora i diari, una sera, è vero, a una cena ho letto delle pagine alle Remora a Milano, tutto qua, quindi c'è del vero e c'è del falso, ma non è vero che le Remora ha due agende, perché non le ho mai viste, quindi non so, mi sembra che qui ognuno dice cose come al solito, fuori un po' dal mondo. La verità forse l'ha detta la Sgarbi, perché in effetti queste agende, quando ne parlavi con Elisabetta Sgarbi, sì, io dissi subito: guarda, vere o false io non lo so, non lo sa nessuno, sono però interessanti, scritte intanto benissimo. Ma dico, si pubblichino così come sono, non c'è bisogno di fare affermazioni e dare certificati di autenticità o di falsità, che credo nessuno possa dare, né in un senso né nell'altro. Si pubblichino così come si sono trovate e ciascuno poi giudicherà, sarà il lettore, chi vorrà, curioso, leggere, sì, queste pagine, decidere e pensare se sono vere o false. Io non voglio dare nessuna patente, appunto, di però senatore De Luti, mi scusi, io le rivolgo la stessa domanda che ho già fatto a Elisabetta Sgarbi e che sicuramente avrò fatto anche lei in un'altra occasione. E quando si pubblicano delle cose come i diari di un personaggio storico molto famoso, e addirittura il libro credo avrà il titolo I diari di Mussolini, come ha scritto Pierluigi Battista, voi avete avuto una piccola polemica sul Corriere della Sera, uno scambio di opinioni in realtà, non una polemica, insomma, l'onere della prova di dimostrare che queste cose sono vere spetta a chi queste cose le pubblica. Non si possono pubblicare dei diari per poi dire: beh, non sappiamo se sono veri, apriamo il dibattito, o no? No, credo che sia esattamente il contrario. Il famoso articolo 8 della legge sui diritti d'autore, la convenzione di Berna, dice proprio questo: l'onere spetta a chi dice che sono falsi, perché questi diari sono stati. Allora, se parliamo di questo, le dico che dal punto di vista del diritto, no, l'onere del diritto, della prova è invertito, spetta esattamente a chi vuole dimostrarne la falsità, perché sono stati riconosciuti veri dalla famiglia di Benito Mussolini. Ma non c'è, io non la mettevo sul piano del diritto, la mettevo sul piano cioè, non c'è uno storico di rango che li reputa veri, sì o no? No, non c'è, perché non li ha ancora studiati, non li ha visti. Cioè, questi diari ancora devono essere letti. Chi li ha visti superficialmente, giudicandone così da qualche refuso, in particolare ha detto: per me sono falsi. Ma chi li ha letti un po' più approfonditamente sono gli inglesi. Sì. Mi riferisco anche a uno storico importante come Dennis McSmith, sì, dice che questi diari sono probabilmente, certo nessuno mette la firma su, sono molto probabilmente veri. Cioè, lei mi sta dicendo che Dennis McSmith, non so se l'abbia mai detto lei questa cosa qua, ha letto i diari. Non è una rivelazione che faccio io. Dennis McSmith ha esaminato questi diari e in una nota degli anni 80, all'inizio degli anni 80 o fine anni 70, non mi ricordo adesso la data, ma insomma è tutto documentato, proprio dichiara, leggo queste pagine di Mussolini che mi appaiono assolutamente possibili e autentiche. È vero che da queste pagine appaiono false, dice l'opposto. Senta, lei è convinto, una volta l'ha detto, che Mussolini avesse un'intelligenza superiore? Intelligenza superiore, ma dipende, definiamo che cos'è l'intelligenza e cos'è superiore. Certamente era una persona assolutamente colta, perché leggeva molto e perché aveva una preparazione storica di notevole caratura, questo è poco ne sicuro. Poi sull'intelligenza ognuno può fare le sue definizioni, e poi è inutile parlare se fosse intelligenza superiore o inferiore, e quello che ha fatto, insomma, dimostra che certamente non era un cretino. Purtroppo ha fatto degli errori purtroppo per lui e per noi, ma questo è un altro paio di maniche, un altro discorso. Senta, Elisabetta Sgarbi mi ha detto che ho fatto una domanda ingenua quando ho chiesto un po' che tipo di transazione finanziaria c'era stata, cioè la Bompiani quanto avesse pagato queste cose. Era una domanda ingenua? No, è una domanda, perché è ingenua? Che ne so, ci ha trattato malissimo. È una domanda, è giusto rivolgerla alla casa di dice, io non c'entro niente. Ma lei cosa ci ha guadagnato da questa vicenda? Qualcosa? Io non ci ho guadagnato niente, ci ho guadagnato però che le agende, cioè proprio il corpus mechanicum, come si dice in gergo, fisicamente sono nella fondazione che dirigo, la biblioteca di Via Senato a Milano. E questo per me è una grande soddisfazione. Sono lì e resteranno lì? Resteranno lì, a disposizione del pubblico. È una biblioteca, la nostra, aperta al pubblico, non è che sia una cosa privata. Non è un'associazione segreta, no? Sì, certo, adesso tutto è segreto. Senta, Però insomma, quando mancano pochi minuti le devo chiedere questa cosa. Sì. Ho letto sui giornali pochi giorni fa che alcuni investigatori sulla vicenda della P3 eccetera dicono P3 non è un virgolettato di qualcuno in particolare, però è stato un virgolettato ripreso da molti giornali. P3 il capo è dell'Utri. Esiste questa P3 secondo lei? Beh, questa è una domanda un po' abbastanza banale, perché alcuni le attribuiscono addirittura dicono che lei è il capo. Io a lei chiedo se esiste la P3. Vabbè. Sì, però mi capisca, sono mi capisca. Responsabile della strage degli innocenti, ne ha sentito parlare lei? Quella lì, per esempio, quella qui, sicuramente se si indaga bene vedrà che mi faranno un avviso di garanzia. Dunque, esiste un'associazione segreta o no? Mi dica sì o mi dica no, è tutto inventato, stanno inventando tutto. Mi dica una cosa su questo. Ma scusi, ma veramente questa è una domanda... A sorpresa, lo so. No, non è una sorpresa, è una domanda, vabbè, diciamo, assurda. Non esiste, ma che domande mi fa? Che non esista, credo che sia, appaia solo agli occhi della maggior parte delle persone. Ma non esiste proprio, ma poi un'associazione che si riunisce in un bar, lei l'ha mai vista, l'associazione segreta che si riunisce in un bar? Anche a casa di qualcuno pare. Anche a casa di Verdini, il famoso pranzo eccetera, non aveva niente a che vedere con l'associazione segreta. Allora io posso inventarmi qualsiasi cosa, dire che anche a casa sua, per esempio, lei fa un pranzo, perché no, ci posso mettere anche della malizia. No, parliamo di cose serie. Parliamo di cose serie. Quando si vota? Quando si vota? Credo che quando deciderà il Presidente della Repubblica. Cosa che non a breve? Pare. No, non mi sembra insomma una cosa a tempo breve. Ma Berlusconi ha fatto un errore rompendo confini oppure no? Se è Berlusconi che ha rotto. Poi sono pieno le fosse. Possiamo dire dopo che è stato un errore. Prima magari invece si diceva bisogna rompere perché così si chiarisce. Facciamo. Lei cosa gli ha consigliato? No, io non consiglio niente. Berlusconi non ha bisogno di consigli, sa sbagliare da sé. E questo è stato un errore? Questo non lo so. Io guardi, non me ne occupo tanto. Non se ne sta occupando tanto. Mi sono occupato di diari di Mussolini. Che sono più importanti, no? Per quello. Che sono più importanti. Sono più interessanti. Più interessanti. È una cosa concreta. La politica poi è tutto così evanescente. Ma lei pensa che ne so, in primavera, insomma, questa legislatura è finita? C'è qualche possibilità di questo governo o no? Ma guardi, che ci siano delle difficoltà è dubbio. Se si potrà governare si andrà avanti. Se invece questo fatto si fermerà perché Berlusconi dovrà chiedere a Fini il consenso, allora si andrà a votare, io penso. Non ci sono alternative, no? No, è elementare il discorso. Assolutamente. Se si può andare avanti a governare, Berlusconi cercherà, mi pare che abbia annunciato che presenterà un programma stretto prossimamente. Ma se lei dovesse fare una previsione, marzo, insomma, questa legislatura che respiro ha? Lei insomma è dell'Utri, è in politica da tanti anni. Ma è affannoso, ma questo non si vede, non è che sia un respiro ampio e salutare. E purtroppo ci sono c'è dell'asma, insomma, e quindi se si può guarire, perché si può curare, no? Guarire, si va avanti nel respiro, diciamo, normale. Se non si può, penso che sia da votare, ma è solo banalità che diciamo. Assolutamente. La ringrazio molto. Prego, mi inviti quando legge i diari, a Comoso. Allora, invito senz'altro, però non in una cosa conventuale, ma diciamo così aperta. Aperta, bene. Grazie. Così saremo tutti contenti. No, non cose segrete, no. Non segrete, non aperte. A presto, grazie. Grazie, Luciano. Giornale Radio. Eccoci qui, 19:18, Luca Telese, ti sei perso dell'Utri. Eri impegnato, ti sei perso dell'Utri che per la prima volta parla della P3, naturalmente dice che non esiste. Uno scherzo, un gioco di ragazzi. No, ha detto che non esiste, una cosa che semplicemente non esiste, e questo dovrebbe apparire chiaro anche a... E la P2 era una bocciofila, perché poi c'è anche questa strana difesa. Ma no? Guarda che sulla P3 io do ragione a Dell'Utri. La P3 non esiste come la P2, allora... Questo l'ha detto... Consigliamo la lettura della relazione Anselmi. Però guarda che ci sono varie interpretazioni. Il giovane Caliendo già figurava con lo stesso ruolo di oggi. Addirittura. No, figurava. Saranno coincidenze? Io non riesco a capire questa cosa. Cioè, c'è ho capito, ma lo sai che la vicenda della P2, la vicenda della P2 ha spazzato via persone che non c'entravano nulla, ha messo... Insomma, no, non diciamo cazzate. Cioè, come non diciamo cazzate? Hanno negato di esserci e c'erano. Ed è stato provato. Ma questo è un altro discorso. C'era anche Maurizio Costanzo. C'era anche Maurizio Costanzo. Maggiore, generali argentini. Maurizio Costanzo. Segreti, tre ministri del governo in carica di allora. Un segretario di partito Longo e il suo. Ma non sto dicendo che non c'era un progetto eversivo. Ma non sto dicendo che non c'era un progetto eversivo. Sto dicendo che la lista della P2 ha messo in mezzo delle persone che poi sono risultate totalmente estranee a qualsiasi ipotesi eversiva. Ma no, che vuol dire? Stavano nella P2, cioè anche nel partito nazista c'erano tante persone che non hanno fatto nulla di male, però ci stavano. Bah. Io non ho mai creduto a questi agnellini che si iscrivono alla loggia segreta con l'iniziazione e poi dice che lo facevano per avere amici con cui chiacchierare, dai. Non ci hai mai creduto, eh? No, e non è così, cioè era un'associazione diversiva in cui c'erano anche persone che hanno avuto ruoli più o meno importanti, però se ti iscrivi a un'associazione segreta ci sarà un motivo. Intanto sentiamo il titolo del TG3 perché c'è grande bagarre intorno a un'intervista di Bersani a Repubblica, liberarci da Berlusconi. Non capisco effettivamente questo stupore, anche se la frase di Bersani potrebbe apparire eccessiva, soprattutto l'appello alla democrazia, ma non è la prima volta, negli ultimi giorni Bersani l'ha ripetuto più volte. Sentiamo. Deragli a Napoli, un treno della Circumvesuviana, un morto e decine di feriti, due gravi, c'è chi dice che il conducente era al telefonino. Alfano, Bersani violento, aveva detto liberiamoci di Berlusconi, il premier detta quattro condizioni a Fini, poi va a pranzo da Previti. Un pugile lasciato dalla fidanzata uccide a pugni la prima donna che incontra per strada, una testimone, nessuno è intervenuto. 52 le vittime degli incendi in Russia, Mosca sotto una coltre di fumo, caos dei voli, conseguenza anche l'Italia, sale il prezzo del grano. Colombe bianche nel cielo di Hiroshima, dove 65 anni fa esplose l'atomica, per la prima volta gli Stati Uniti alla commemorazione. Il palio da abolire come la corrida, il TG3 è andato a sentire cosa ne pensano a Siena, una città sul piede di guerra. Tra poco a Torino il concerto degli U2, aperto al pomeriggio ai cancelli dello stadio. La notte scorsa Bono ha distribuito pizze ai fan in attesa. Tutti al mare, tutti al mare, a mostrare le ghiappe, ghiare, con i pesci in mezzo all'ora. Caro Luca, la politica è in vacanza, ma non troppo, non troppo però, dichiarazioni su dichiarazioni, polemiche su polemiche. Poco fa Albertini, l'ex sindaco di Milano, ci ha detto: è vero, troppi scandali e troppe zoccole. Hai capito? Io vedo che la parola zoccola ormai è diventata un... È stata sdoganata, è stata sdoganata. Dentro il PDL, ti ricordi anche un altro ospite della Zanzara? Sì. L'onorevole Musso. Senatore Musso. Assolutamente. Lo sta usando a profluvio. Quando lo dicevamo noi eravamo un po' eretici. No, vedi, quando lo diceva Grillo, quando lo diceva Grillo. Ti ricordi la prima volta c'era, è stato Grillo? No, pensavo che lo stavi chiamando. No, ma ti ricordi Grillo che diceva le zoccole? In realtà si rivolgeva alle parlamentari, Però insomma io ho fatto una domanda prima ad Albertini, il senatore Musso, un senatore del PDL, dice che ci sono troppe scandali e troppe zoccole. Ha perfettamente ragione, questa è la risposta. Mi sono stupito, mi sono stupito. Ormai è, come dire, un fatto acclarato, un tema del dibattito. Ma invece dimmi di Bersani, non vorrei dovermi trovare io una volta a difendere Bersani, è contro i miei principi. Alfano su Bersani, sentiamo la reazione del Ministro della Giustizia. La dichiarazione di oggi del segretario Bersani su Repubblica, nella sua chiarezza, è scandalosa. Propone un governo guidato da chi ha perso le elezioni contro chi ha vinto le elezioni ed usa un linguaggio di una violenza inaccettabile. Tutti al mare. E mi sembra che non ci vadano tutti al mare. La violenza delle parole di Bersani, che dice, come sai, a Repubblica bisogna liberarsi di Berlusconi perché rischia la democrazia. Difendilo, Luca, difendilo. No, non ce la faccio. Non ce la fai, eh. Voglio dire una cosa contro Corrente. Perché sei contro la mucchiata, perché sei contro la mucchiata. Sono contro la mucchiata, ovvio, e su questo siamo pessimi d'accordo, ma trovo... La mucchiata politica, diciamo, non la mucchiata. È veramente antistorico, antipolitico, da pensiero debole. Cioè l'idea che esista Berlusconi cattivo e poi Tremonti buono, bello, dolce, illuminato. E no, se il berlusconismo è stato un obbrobrio, allora voglio dire anche... il Salvatore Tremonti, l'aspirante Salvatore Tremonti deve essere inserito. Moia Sansone con tutti i filistei. No, cioè o si prende atto che è stata comunque una vicenda politica, un blocco sociale e non, come dire, uno scene incidente della storia. C'è molto, guarda, voglio dire una cosa altra, un po' di tardo azionismo in questa analisi, che non a caso veicola attraverso il partito Repubblica, attraverso gli intellettuali un po' della gauche caviar. Sentiamo invece, sta diventando un po' una esaltazione di un uomo politico, sta diventando, c'è un po' di idolatria. Come sai, al Festival di Venezia verrà presentato un cortometraggio su Niki Vendola. Il titolo di questo cortometraggio è, com'è, sposare, tu lo sai bene, eh? Sì, com'è? Sposerò Simon Le Bon. Simile a sposerò Simon, sposerò Niki Vendola. Stasera... Se dovessi scegliere una canzone, ne sceglierei una che normalmente non è nel mio repertorio, perché pur essendo la colonna sonora della nazione italiana, è una canzone che ha qualche sbavatura retorica di troppo, con quell'elmo di Scipio che a me proprio non piace. Di Niki Vendola, lei come lo vede? Lo vedo come un fatto positivo, nel senso che può mobilitare una parte dell'elettorato che nelle ultime elezioni è stato ai margini. Non credo che Vendola sia il leader adatto per guidare una coalizione di centro-sinistra al governo del paese. Io ne voterei un altro, diciamo. Sono molto contento del fatto che Massimo D'Alema abbia espresso il suo voto nei miei confronti. Negativo, soffro del fatto che ho un voto in meno. Tuttavia, gioisco del fatto che D'Alema quindi condivida l'idea che bisogna esprimersi e il modo per consentire a tutti di esprimersi è le primarie. Bello questo confronto a distanza, Luca? Però c'è sempre, no? Che c'è? È così, la capacità di racconto del vendolismo. Ma tu sei rimasto affascinato da questa, subito dalle parole di Vendola? No, a me l'elmo di Scipio mi commuove, quindi, appunto, ma anche, anche quando a me. Ti sento mi è simpatico. Io quando sento l'inno e non riesco a capire che non c'è un cacchio di politico, mi viene proprio un magone, perché in quella marcetta c'è il senso drammatico e lieve dell'Italia. Vedi che abbiamo qualcosa in comune, anche a me l'inno italiano commuove. Sono molto bello, molto bello. Cioè tu lo manterresti, quelli che dicono lo vogliono... Ma stai scherzando, ma leghisti e citrulli non lo vogliono, oppure vecchia sinistra stracciacula che non ci interessa. sei in forma stasera, la vecchia sinistra stracciacula, fantastico. Ho fatto un'intervista a Bottafuoco e mi ha spiazzato totalmente. Perché? Ora la sto scrivendo, domani ci... Perché è un modo diverso di pensare e quindi, che ne so, quando racconta e dice io... Nel 94 ho visto il berlusconismo come una grande stagione, dice, i lettori del Fatto resteranno sconvolti e quindi soffro adesso che vedo che è passato via il sorriso dalla classe dirigente del centrodestra, si è incupito. Quindi dice è finito il berlusconismo ma non è finito Berlusconi. Magari è vero. Non è finito Berlusconi, che c'è, cioè, ancora deve... ha qualcosa da spendere. È il grande sogno, ma Berlusconi però non è ancora caduto. Dice è il contrario, di solito prima finisce un personaggio e poi finisce il fenomeno. Invece dice buttafuoco, Berlusconi può ancora darci le sorprese, ma il grande sogno berlusconiano, come io l'avevo interpretato, è finito. Senti, ma hai sentito Straquadano litigare col tuo amico Marongiu dell'isola dei... No! Non l'hai sentito? Adesso fra poco, adesso scrivi per 5 minuti, dopo la borsa ti faccio sentire Straquadano versus Marongiu eccezionale. 800 24 00 24, tra poco. La Zanzara. Che bisogna saperci stare sul mercato, non basta dire noi siamo i più bravi del mondo e l'ENI deve finanziare in perdita una produzione, perché questa non è una visione per la quale si produce il lavoro, questa è la visione con la quale certo sindacalismo ha distrutto il lavoro in Italia. E se andiamo avanti con queste sciocchezzuole su cosa fa il ministro dello sviluppo economico, pazienza. Scusi, buon uomo, ma siamo credo che lei, scusi, credo. Buon uomo, a un certo punto Marongiu si rivolge a Straquadano, buon uomo, mi ascolti. Ma no, senta, siccome è arrivato all'insulto personale su chi fa vacanze o chi non allora, fa vacanze, sentiamo, noi stiamo lavorando. Senta, abbia pazienza, buon uomo, no, cerchi di stare un pochino più attento all'argomento. Scegli la questione senza... è inutile che diamo giudizi, entriamo nel merito della questione. Scusi. La smetta di parlare così, dice ancora Marongiu a Straquadano, perché mi rompe le trombe di Eustachio. Ora, visto che l'ENI ha la metà di quello che serve per fare il PVC, il prodotto finale, deve semplicemente rilevare gli impianti di Vinyls e continuare a produrre quello che, ripeto, è il miglior PVC. Ecco, ma perché non lo sta facendo? È l'edificio o no? Perché non lo sta facendo? Perché non lo sta facendo? Io chiedo scusa un attimino a quel gentile signore, ma ho un auricolare e mi sta distruggendo le trombe di Eustachio. Ripeto, questa è una produzione altamente redditizia. Luca, eccoci qui. Vero? I tuoi amici, hai visto i tuoi amici? Marongiu è un che di geniale. Questi li devono tutti scritturare, devono farlo davvero un reality. Non ci mandate quei lobotomizzati, mandateci loro. I lobotomizzati? Ah, i lobotomizzati dell'isola dei famosi... Vabbè, non è che sono tutti lobotomizzati, pure Busi c'è stato, non insultare Busi, che già... capito, ma il tono medio, il tono medio degli operai sardi è geniale, uno che dice... Buon uomo, e le trombe di Eustachio. Lo sai che Straquadano che errore commette ogni tanto? Quello di voler parlare su qualsiasi cosa, no? Magari uno poteva stare... È vero che di fronte certe volte a una retorica che però non è di Marongiu, mi sembra una retorica sindacalese, una retorica... No, però loro non ce l'hanno. Loro non ce l'hanno. Magari ha detto qualche parola di troppo sulle vacanze. Forse erano più moderni di quanto non pensasse Straquadano avendo in testa un cliché. E non è uomo di cliché, però si vede che in quel caso. Va bene, se devi andare vai, Non c'è problema. Lo sai che i primi tre delle canzoni quali sono? Sì, dimmi, c'è aggiornamenti, voglio saperlo. Il primo al 30% è il nostro amico Barbato, Te lo faccio sentire subito. Barbato. No, 30% Barbato, te lo faccio riascoltare, perché noi abbiamo deciso di procedere in questo modo. Dici se è sbagliato, ci sarà un vincitore, sto parlando delle Ugole del Palazzo naturalmente, il vincitore diciamo popolare e il vincitore della giuria degli esperti, che sarà composta da Iva Zanicchi, che fra poco sarà ai nostri microfoni, la quale ha già scelto, però ha scelto in maniera difforme rispetto alla giuria popolare, cioè rispetto agli ascoltatori. Gli ascoltatori hanno scelto quest'uomo qui. Sei dentro di me come l'alta marea che riappare e scompare portandomi via. Sei il mistero profondo, la passione, l'idea, sei l'immensa paura che tu non sia mia. Tu sei dentro di me come l'alta marea. Telese, la canto meglio io, Secondo me c'è un complotto di forzisti che votano Barbato per screditare l'Italia dei Valori. Dici? Va bene, grazie. Ciao, ciao, ciao, presto. Sei l'immensa paura che tu non sia mia. Lo so, lo sai, il tempo vola, ma quanta strada per rivederti ancora, per uno sguardo, per il mio orgoglio, quanto ti voglio. Sei dentro di me come l'alta marea che riappare e scompare portandomi via. Sei il mistero profondo, la passione, l'idea, sei l'immensa paura che tu non sia mia. Lo so, lo sai, il tempo vola, ma quanta strada per rivederti ancora, per uno sguardo, per il mio orgoglio, quanto ti voglio. Sei dentro di me. Col 30% Franco Barbato, Italia dei Valori, vince il concorso popolare. Però non è tutto, non è finita qui, non potevamo lasciare solamente al volgo la scelta finale, al popolo la scelta finale. No, abbiamo scelto una via di mezzo, ci sarà il vincitore del popolo, del volgo, in senso buono il volgo, mica in senso negativo. E il vincitore scelto da Iva Zanicchi. Fra poco, state lì, ascoltatori. Nino da Caserta. Nino, pronto? Pronto? Buonasera. Cruciani, buonasera. Non mi ammazzi così adesso, il pathos. Niente, ascoltando la sua trasmissione, e quando lei ha chiesto a un suo interlocutore cosa ne pensasse delle dimissioni di Verdini e del sottosegretario della giustizia, se dovevano o no dimettersi. Sì. A questo punto è venuto un pensiero. Dopo le dimissioni di Scajola per la famosa casa lì a Colosseo, non sarebbe giusto che anche Fini, dato che lui è così puritano, così moralista, non ci dovrebbe rimettere pure lui per la casa di Monte Carlo? No, guardi, secondo me deve dare ancora delle spiegazioni. Prima delle dimissioni che lei immagina, eccetera, ci vogliono delle spiegazioni che finora non sono venute. Anche per Scajola sono passati 4 mesi. Beh, insomma, Scajola è un po' diverso, ha ammesso pubblicamente, sì, ma non è questione di avvisi di garanzia, ha ammesso pubblicamente che non sapeva chi gli ha pagato la casa, una parte della casa, insomma, mi sembra una cosa per il momento un po' più concreta rispetto alla vicenda di Fini, su cui comunque c'è un doppio pesismo da parte della grande stampa, su questo non c'è dubbio. Poi un altro pensiero che avevo. Dica. Se noi seguiamo Fini e i suoi amici, che cosa succede? Mi dici che è garantista, però col suo modo di fare non fa altro che togliere il potere al popolo sovrano e lo consegna ai giudici, che oggi domani i giudici fanno un avviso di garanzia a qualsiasi politico e quindi indirizzano o loro stessi o un politico da loro compiacente e lo mettono lì, quindi comandano loro, il popolo non sarà più sovrano. Non so se è stato chiaro. No, chiarissimo Nino, no, nessuna emozione, lei è stato molto chiaro, grazie. Le cose, Randino, provincia di Monza, grazie Nino. Randino, che nome strano, Randino, provincia sì, di Monza. Il mio nome, buonasera. Per carità, non volevo offenderla. No, anzi, sono abituato. Comunque. Da dove viene? Beh, immagino, da dove viene questo nome? Origini germaniche, un tanto dei primi secoli del cristianesimo, che però non pare non abbia goduto di certi privilegi. Così. Di certi privilegi, lei parla della Chiesa cattolica? Sì, dentro la Chiesa, dentro tra la i santi, Chiesa. Insomma, no, santi. È uno che non ha avuto proseliti, non ha avuto storie. È un modo così un po' ironico, ovviamente. Sì, così. Volevo, se mi è concesso, salutare il suo collega Telese, sì, che trovo prego, una persona saluto. Che promette bene, ironico, beh, abbastanza è modesto. È più di una promessa, è più di una promessa ormai Telese. Sì. Ormai è proiettato verso grandi traguardi televisivi. Vabbè, speriamo, glielo auguro. Volevo, se è concesso, esprimere la mia soddisfazione moderata, ma... Prego, Randino, non sia troppo per diplomatico. Per quanto riguarda le dichiarazioni, vorrei tanto avere la proprietà del linguaggio che ha Albertini. Io non sono del centrodestra. Le è piaciuto l'intervento di Albertini? Sì, molto, molto. Soprattutto perché ha la schiena dritta. Che è il problema, adesso prima ancora di dire su Bersani, che è il problema che ha sempre, a mio parere... come dentro un'azienda, perché è così, non in tutte, ma che dentro le aziende i dirigenti, se non dicono sì padrone, vengono buttati fuori, vengono assunti e buttati fuori. E così è per Forza Italia prima, il PDL adesso. Dunque il fenomeno, quello che di positivo io vedo, al di là di come sia stato gestito, trattato, eccetera, è che finalmente un po' di persone, da Pisano, Albertini, a Moroni, insomma un po' di persone, ormai si sente anche nella base, anche a qualche giorno con cui parlavo ieri sera ad esempio, che non ce la fanno più a turarsi il naso, insomma sono stufi di dire, sia ben chiaro, non è una cosa di dire? Che non so se avrà fortuna o meno, di dire sempre sì, Berlusconi riuscirà a eliminare l'avversario, no? Come fosse un competitore di un'altra azienda, eccetera. Ecco lì. E dunque questo secondo me è il fenomeno positivo che, al di là di entrare nel merito, Fini, eccetera, eccetera, sta venendo fuori. Ho capito, ma Randino, la ringrazio, grazie di questo intervento. Prego. Tommaso da Grosseto. Buonasera Cruciani. Ma è un'opposizione quella di Bersani che a braccia aperte accoglie da ex comunista un ex missino per costituire un eventuale governo senza un programma e senza un'alternativa? Cioè, per un ex o comunque per un elettore del centrodestra dubbioso, un'alternativa di centrosinistra che cerca di raccogliere pezzi del centrodestra senza fare una proposta alternativa di governo, in una situazione di crisi economica nella quale sarebbe stato invece secondo me molto facile fare una proposta di risoluzione economica, questo già qualche mese fa, però, mi scusi, con dei punti di programma preciso da proporre a un paese. Non è che Bersani propone un'alleanza di governo che vada fini a... No, peggio, perché propone un governo tecnico in cui, pur di diciamo mandare a casa, come ha detto lui oggi in modo molto brutale, anche poco elegante, di liberarsi di Berlusconi, pur di fare questo accetta qualsiasi compromesso. Tra l'altro, Rosi Bindi, parlare di al governo, sì, è l'evoluzione nel partito, no, il governo, sì, nel partito ancora peggio, è un'evoluzione naturale a una politica che non ha più un'idea. Lasciamo perdere gli ideali o le ideologie, sì, ancora però, peggio, Tommaso, ma almeno un'idea. Le volevo far notare che a proposito di alleanze, oggi in un'intervista alla stampa Rosi Bindi dice: se si va alle urne, alleanza anche con Fini per battere Berlusconi. Cioè Bindi è una di quelle che imbarcherebbe tutti. Pur, ho capito, di, ma l'abbiamo Berlusconi già vissuta questa. E l'abbiamo già vissuta. Le confesso che nel momento in cui ci fu il momento dell'Ulivo, io che provengo da una storia di Democristiano e poi Forza Italia o comunque sempre di centrodestra, mi sono posto il problema di valutare quali fossero le proposte di governo, i programmi di governo, e me li sono letti. Ma nel momento in cui mi metti Rifondazione Comunista, i cattolici e la parte degli ex democristiani, ex socialisti, socialdemocratici, quello che vogliamo, e ora mi ci aggiunge anche Fini, veramente faccio fatica a capire dove stiamo andando. Grazie Tommaso, grazie. David da Pisa, sempre la Toscana. David, prego. Sì, buonasera. Ecco, praticamente sono stato anticipato. La sentiamo male col telefonino, Andrea da Ferrara. Buonasera Cruciani, io volevo fare un intervento sempre sul discorso di Repubblica, quello che ha pubblicato. L'indignazione della gente, diciamo, può essere vista sia per le parole che ha utilizzato, che da qualche nuovo Tartaglia potrebbero anche essere prese come un invito ad agire, e anche perché, come diceva l'ascoltatore precedente, va bene, eliminiamo Berlusconi e poi il PD con chi se la prende? Chi utilizza per fare gruppo? Cioè, questa è una domanda che mi sorge spontanea. Cioè, tutti parlano di elezioni anticipate, però chi ci va alle elezioni? Sì, ma questo è tutto da vedere. Fermiamoci alle frasi di Bersani oggi a Repubblica, che hanno suscitato tutte queste reazioni. Dobbiamo liberarci di Berlusconi, lo ripeto per chi non l'avesse ancora letto. Forse è stato Berlusconi a dire una cosa del genere. Rischia la democrazia, se la posta in gioco è quella. L'unico problema democratico, secondo me, è proprio il Partito Democratico. Un problema democratico addirittura, non lo so, però. Perché comunque è un partito che dovrebbe fare un'opposizione ma non fa l'opposizione, fa solo il bastian contrario e, ho capito. Qualsiasi cosa che il governo Berlusconi mette in atto, che per carità possono essere sicuramente alcune decisioni molto discutibili, però almeno Berlusconi va riconosciuto. Diciamo che da quando è mondo in Italia, tutte le opposizioni, anche quando c'era il centrosinistra al governo, non è che fossero opposizioni costruttive, no? No, infatti, però almeno diciamo quando Berlusconi era all'opposizione diceva le stesse cose che adesso dice l'opposizione, che il governo fa schifo, che bisogna mandarli a casa, eccetera eccetera. Magari non parlava di emergenza democratica, anche se ricordo un periodo in cui in realtà si parlava di emergenza democratica, occupano tutto, nel caso di Prodi. Sono tutti dei mestieranti, fanno poi il loro mestiere. Guardi, però spesso si utilizzano le stesse frasi. Mi ricordo Berlusconi, non so chi, forse Berlusconi stesso, che diceva c'è un'emergenza democratica perché loro hanno occupato la Corte Costituzionale, occupano la RAI, eccetera eccetera. È sempre la solita storia, è sempre la solita tiritera. Grazie. Grazie Maurizio, dalla provincia di Milano. Buonasera. Buonasera. Sì, buonasera. Maurizio, chiuda la radio, spenga. Ho già spento. Grazie, dica. No, niente, ascoltavo con attenzione tutto ciò che gli altri ascoltatori hanno detto. Ma l'unica cosa che mi sovviene di dirle è questo, che Bersani fa bene fare quello che ha fatto. Quello che dice, Bersani è dall'altra parte, quindi è giusto che faccia così. Lei stesso ha detto che Berlusconi, peggio ancora, li tacciava come comunisti che mangiavano i bambini, per cui voglio dire, l'ipocrisia è dilagante. Ma al di là di questo, scusi, Che sta facendo Maurizio? No, c'era la polizia e io non sono fermo con la macchina, mi scusi. Vabbè, questo è fondamentale però. Si fermi. Allora, voglio dire, Berlusconi ha fatto e detto di peggio di quello che è stato detto da Bersani. Io l'unica cosa che dico è questo. Gli altri di AN sicuramente, ascoltando tutti i giorni Di Pietro, si sono convertiti, hanno capito che la loro coscienza è meglio non sporcarla di più stando con Berlusconi. La coscienza, non sporcarla di più, Maurizio, che esagerazione. Una volta ho già detto che bisognava far vedere in aula a Montecitorio alle camere, o comunque che cosa bisognava far vedere? I politici, bisognava far vedere tutti i giorni un film di San Francesco per fargli vedere l'umiltà, dov'è, da dove arriva e cosa è. Sì, però sono tutti sporchi. Ma questa è pura demagogia, Maurizio. Ma grazie. È demagogia. Su questi signori sono tutti sporchi. Demagogia allo stato puro. Maurizio, si fermi lì. Fermo lì con la macchina. Chiusura finale del nostro concorso Le Ugole del Palazzo. Bene, in collegamento, credo dagli Appennini ancora, Iva Zanicchi, buonasera. Buonasera a voi, sì, proprio dall'Appennino Toscanigliano. Dove si trova esattamente? Ci ripeta questa località fantastica in cui si trova con sua madre. Ho già parlato di questo mio piccolo paese. Allora, si trova in provincia di Reggio Emilia. Sì. Ma io dico sempre che è l'ombelico del mondo, come dice Giovannotti, perché è un po' con le stesse distanze, si va a Bologna, Modena, Reggio, La Spezia, La Ulla, Parma. Vabbè, come si chiama? Posso andare ovunque, sempre con 75 chilometri. Come si chiama? Ligonchio. Oh. Ma come, lei non sa che io sono l'Aquila di Ligonchio? Ma lo dico per farlo sentire agli ascoltatori, dalla sua voce. Ma ci mancherebbe altro, caro. Senta, lo sa che lei è stata, da un certo punto di vista, poi ne parleremo, preveggente su questa storia di Fini, quella frase famosa che lei ha pronunciato non solo qui, anche dagli amici Sabelli e Lauro, fuori dalle palle, è diventata insomma per un must assoluto. Vabbè, ma io l'ho detta certamente, non lo rinego, lo ridico anche, però lei sa che era proprio una trasmissione radiofonica molto simpatica, molto ridacciana, certo, molto scherzosa, ma non per questo io ho detto fuori dalle palle e lo ripeto. Però è la cosa che è accaduta, poi. Ma amore, io sento delle cose come il signore poc'anzi dire delle corbellerie che allora dire fuori dalle palle, guardi, è quasi uno scherzo. Beh, è stata un'analisi politica fine, che ha previsto quello che sarebbe accaduto. Alla fine, ma guardi che tutto sommato poi io ho sempre stimato, adesso sembra una sviolinata assurda, ma io ho sempre stimato Fini perché era un uomo elegante, un uomo carino, mai litigioso, contenuto anche nelle parole. Insomma, a me piaceva Fini e devo dire che aveva molte simpatie anche insieme alla mia famiglia. Per esempio, il mio genero era un finiano. E adesso invece? Ho alzato le mani, ho detto adesso basta, chiuso, e infatti è d'accordo pure lui. Per cui, vabbè, ma questo minuetto, queste cose, io non le ho capite, o forse le ho capite anche troppo bene, ecco perché, anticipando un po' tutti, mi sono permesso di dire fuori dalle palle. E lei ha anticipato tutti. Comunque, adesso non ne parliamo, parliamo di una cosa molto più importante. Bravo, parliamo di musica, ho dai. Ho fatto cantare i deputati, i senatori, gli europarlamentari, è stata una piccola cosa, ma l'anno prossimo ne organizzo una più grande, la seconda guardi edizione. Che questa è un'idea formidabile. Lo sai chi l'ha avuta per primo? Io, se fossi lei, cercherei di farla, sicuramente, di farne un festival vero e proprio. Stia attento che non gli rubino l'idea, perché è fantastica, trovo. Lo sa Dato che cantano anche troppo, facciamoli cantare con una base musicale, proprio ad hoc, una musica, che la musica vera, no? Sì, sì, sarebbe infatti sarebbe molto carino. Devo dire la verità che non lo sapevo all'inizio, quando mi sono inventato questa cosa, però una cosa simile la faceva Enzo Tortora, lo ripeto per la centesima volta, il quale all'interno di una trasmissione che lei ricorderà, mica perché lei è vecchia, per carità, perché sto parlando del 1982, la trasmissione era Cipria, caro ragazzo, e Tortora si inventò una rubrica che si chiamava Le ugole del palazzo, cantavano a tutti i leader di partito, i leader insomma, Pietro Longo che era un leader di partito, Carlo Vizzini e altri si esibivano, e noi abbiamo ripreso questa cosa quando ce l'hanno ricordato, il titolo proprio in omaggio al grande Enzo Tortora. È vero, lui è stato un innovatore, adesso non perché insomma che è morto, ma no, sappiamo tutti che era un uomo intelligente, coltissimo, e davvero ha fatto trasmissioni piacevolissime e godibilissime, ed è stato uno grande, per cui bene, adesso che me lo ricordi, è vero. Le è ugole del palazzo, e l'anno prossimo faremo un'edizione come vuole Iva Zanicchi, sicuramente più, no, un po' più frizzante. Se ci sarà una giuria ti ricordi di me, eh? Come no, certo, questa è una giuria improvvisata, perché il popolo ha scelto una cosa agghiacciante, Zanicchi. Ha già scelto? Sì, il popolo allora ha scelto. Che influenza posso avere? Ha scelto una triade, e all'interno della triade poi bisogna scegliere il vincitore, e noi abbiamo da tempo, senza dirtelo prima, poi te l'abbiamo detto dopo, abbiamo sempre detto che Iva Zanicchi avrebbe scelto il vincitore. Ah, che bravo! Meno male che mi avete trovato sull'Appennino Tosquiano, perché come ben vede io non frequento le zone e località, mi piacerebbe tra l'altro. Le piacerebbe. Io sono qui, ma le garantisco che si sta da Dio. Lo so, lo è immagino. Un posto meraviglioso. Io verrei immediatamente, farei delle corse fantastiche. Ma mangiamo bene, facciamo dei piatti sconosciuti al resto dell'Italia, sembra impossibile, ma è così. Facciamo per esempio un piatto che si chiama, non rida, perché è il suo nome vero, che si chiama la pattona, con la P, pattona. Non pattona. Vabbè, pattona. Anche pattona, qualche rimando, qualche... Ma guardi, un piatto fantastico! La pattona, com'è questo piatto? Com'è questo piatto? Beh, guarda, adesso spieghiamo come si fa, ecco, è un po' complicato. Io lo spiego e lo spieghi, bene che lo spiego. Lo facciamo mangiare. È una cosa buonissima, gustosissima, certo non da dieta, perché bastano poche fette perché uno ingrassi anche qualche chilo. Allora... Però vale la pena una volta di assaggiarlo. E com'è? La polenta di castagne. No, certo, ma mi dica qualche ingrediente di questa pattona, sono curioso. Guardi, la pattona, lei con un po' di fantasia ci può arrivare. Bisogna fare, noi la chiamiamo la soletta, non è una soletta di scarpe, ma assomiglia. Fatta con farina, acqua, e poi ci vuole un trito molto sostanzioso, grasso di maiale, rosmarino, si fa soffriggere, e poi aglio abbondante. Questa è la soletta. Questo è il suggerimento di sua madre, l'ho sentito. Si fa, lei pensi ad una specie di purè, che non è purè, ma è fatto con le patate, anche lì con degli ingredienti tanti, gustosissimi, e si fa uno strato molto alto, di 5-6 centimetri, anche di più, sopra questa soletta. Sì. Si mangia calda ed è una roba da svenire. Ma quante calorie ha? 10.000? 10.000? Guardi, non ne parliamo proprio. Non ne parliamo. Ho sentito la voce di sua madre. La mia mamma... Che le diceva aglio, se non sbaglio. Sì, l'ho pizzicata. Qui, Io sono qui non perché tutte le estati voglia passarle. Beh, il buon Prodi, anche lui passa spesso e volentieri qui, certo, al paese, fa delle giornate vicine, qui lui è nato qui vicino. Lo incontra lei ogni tanto? L'Appennino, sì, sì, non, no, quest'ultimo anno no, però viene, so che ama molto anche lui queste zone. Io sono qui, anch'io preferirei andare forse al mare, godermi le spiagge dorate della Sardegna, ma io sono qui, una mia certamente perché lo voglio, perché c'è sua madre, certo, che ha 96 anni e che mitica, però mitica assieme ancora. Io faccio dei conci quando vedo che mi dicono guarda che tua mamma la vedo male, e l'altra sera ho avuto paura perché non rispondeva. Io mi sono avvicinata a un orecchio e gli ho cantato una vecchia canzone che cantava la sua nonna, molto triste perché lei sa che le canzoni di un tempo morivano tutti, erano tristissime. Bene, lei ha aperto gli occhi e mi ha risposto, ha detto: ti è, la mia mamma va avanti e come, vuole che gliela canti? Beh, come no, certo. No, dai. Come no? No, io le ho solo cantato all'orecchio perché... Per sua madre, me lo faccio, mi faccia sentire quello che... No, quello ho fatto che... solo un accenno piccolo. Un accenno piccolo. Perché volevo capire se lei era ancora attenta. Allora mi sono avvicinato all'orecchio e gli ho fatto: mia cara Giulia, perché moristi tu? E lei mi ha detto: senza il tuo amore io non vivo più. Ti capè? Beh, ho capito come non ho capito. Da brivido, ragazzo! Da grande brivido. Sì. Però io ho sentito prima che sua madre è attentissima. Appena lei stava elencando gli ingredienti della pattona, ha detto subito aglio. Insomma, mentalmente è 30 anni di meno, 40 anni di meno, no? Ah, no? Certo. Io dopo questa sua esibizione ho difficoltà a mandarle. Lasci perdere, caro, lasci perdere. No, no, no. Barbato, il primo 31%, sentite. No, lo so, lo sai, la mente vola fuori dal tempo e si ritrova sola, senza più corpo né prigioniera. Nasce l'aurora, tu sei dentro di me come l'alta marea che riappare e scompare portandomi via. Ma com'è possibile col 31 per qui c'è stata una cordata di persone? Allora questo sì, questo l'onorevole Barbato è arrivato primo? Sì, sì. Perché sa gli altri allora. È meglio che chiudiamo qua il collegamento, caro lei. No, voglio dire, sa cosa? Lui canta con una grande passionalità, devo dire. Ah, ecco. Stonato, perché senza dubbio è stonato, sì. Perché è stonato, non si deve dire che è intonato. Però forse quelle persone... Però ci mette molto cuore e passione. E forse le persone hanno votato per questo. Bene, bel giudizio. Adragna, il secondo, 17%, Partito Democratico. Io non so parlare d'amore, l'emozione non ha voce. E mi manca un po' il respiro, se ci sei c'è troppa luce. La mia anima si spande come musica d'estate, poi la voglia sai mi prende e si accende con i baci tuoi. Fra le mie braccia dormirai serenamente ed è importante questo sai. Per sentirci pienamente noi. Il questore del Senato, presidente dell'Interclub del Senato, Zanicchi, com'è? Allora, guardi, l'onorevole Adragna, no? Adragna, sì, Adragna. Molto meglio. Molto meglio. No, meglio. Meglio di Barbato, bisogna dire la meglio verità. Meglio di Barbato. Cioè, meno passionalità, però ha il senso del ritmo. Andava quasi a tempo, penso, come sì, mai, sì. Ma perché visto che canta una cappella... E allora non è facile, caro. No, lei. No, assolutamente. E devo dire che però ha una certa ha più musicalità. Bravo. Scanu, un bel 8. Eh? Terzo arrivato Scanu col 12%, che abbiamo detto non è parente del vicino del Festival di Sanremo, è però quasi è dello stesso paese, 20-30 km di distanza. Via. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di Rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. L'onorevole Scanu, io darei un bel 9. Dei tre sicuramente il più bravo, poi questa canzone, sa, questa canzone che tratta di questa signora è meravigliosa. Io direi che tra i tre lui sicuramente è il migliore. Mi dispiace che questa classifica non lo premi. No, è terzo su 11, mica non lo premia. Addirittura 11? Eh sì, nel e me ne fa ascoltare 11? No. I primi tre. Okay. Il vincitore per Iva Zanicchi è Giampiero Scanu, Bocca di Rosa di Fabrizio, sì, De André. Secondo Frangel e terzo Barbato, con tutta la buona volontà, ma non ce la fa. Ma vabbè. Senta, però, in conclusione, lei perché è molto bella questa cosa, veramente. La canzone che ha cantato, le poche strofe a sua madre, non dico per farla riprendere, ma non ce n'era bisogno. Insomma, quali sono? Me le ripeta. La canzone? La canzone. No, questa canzone che io le ho accennato. È una canzone che avrà, non esagero, 90 anni, non la conosce nessuno. È la storia bellissima, nuova, di un ragazzo che parte militare, allora quando si andava militare forse non si tornava, c'erano guerre ovunque, che dice alla sua bella, a questa Giulia, strappandole un bacio dopo anni di corteggiamento, perché allora sa com'è, no? Non è come adesso che la... Sì, ho capito. Allora no. E dice: quando torno dal militare o dalla guerra io ti sposo. E lui è rientrato, corre dalla sua bella e dicono: è morta, perché le canzoni erano tutte così tragiche. E allora è lì che io alla mia mamma dico: cara Giulia, perché moristi tu? Senza il tuo amore io non vivo più. E prende un coltello dalla cucina un po' arrugginito e si uccide. E dopo lo scempio dei parlamentari, sto scherzando in senso positivo, chiudiamo in questo modo. Grazie. Grazie a voi. A presto. Un abbraccio, saluto a tutti. Vogliamoci bene nonostante tutto. 22 minuti. I telegiornali tra poco. Vorremmo passare qualche giorno a Frascati, ma sull'autostrada non trovarci imbottigliati. 12:54. Ringa 12:54, ti trova l'albergo e anche le condizioni del traffico. Per i costi vai su 12:54.it. Fiat Professional presenta... So Diego, ti spiego. Fiat Ducato è il numero uno in Italia. Oh, pobacco. E fino al 31 agosto, se hai un usato da rottamare, Ducato da 13.900 euro con clima e radio CD. Sbarbatella, ma sei lacunosa, lacustre, poco limpida. So Diego, ti spiego. Hai omesso che Ducato porta fino a 20 quintali. Ci puoi caricare scombro, ostriche, calamari, peperoni, cozze, cetacei, ortaggi. Stanno freschi, si divertono e ascoltano pure la musica. Mo so spiegato? La Zanzara. Eccoci, 23 minuti, 800 24 00 24. La settimana prossima inviteremo tutti, naturalmente, vincitori e vinti del nostro concorso Ligure del Palazzo. Andiamo a sentire il TG5. Gran balzo della produzione industriale con una crescita dell'8,2% in un anno, record dal 2000. I provvedimenti anticrisi danno i primi frutti. Allarme Corte dei Conti, alle stelle i debiti dei comuni. Deraglia a Napoli un treno della Circumvesuviana, un morto e decine di feriti. Testimoni accusano il macchinista al cellulare, andava troppo veloce, aperte 3 inchieste. Lasciato dalla ragazza, uccide a pugni la prima donna che incontra per strada. L'uomo è un ucraino, pugile per hobby, la vittima una filippina. A 20 anni dal delitto, l'assassino di Simonetta Cesaroni non ha ancora un nome. In corso il processo all'unico sospettato, l'ex fidanzato Raniero Busco. Boom di richieste per la nuova pillola dell'amore creata da un urologo dell'Università di Napoli. Un Viagra rosso a base di componenti naturali estratti da un'alga. Tra pubblica utilità e business, nel deserto d'agosto, in città spuntano le cooperative dei Trova Tutto, dall'idraulico alla badante. Ecco gli azzurri di Prandelli, il CT della Nazionale convoca Balotelli, Cassano e Amauri per l'amichevole del 10 agosto contro la Costa d'Avorio. La 7 abbiamo? No. TG1, andiamo. Istat, prodotto interno lordo in crescita dell'1,1% nel secondo trimestre, il massimo da inizio crisi, a giugno vola l'industria. Napoli deraglia treno della Circumvesuviana, un morto e una sessantina di feriti, forse la velocità la causa della tragedia. Bersani, liberarsi di Berlusconi, Alfano, da PD violenza inaccettabile, il premier rilancia indicando 4 punti su cui chiedere la fiducia ai finiani. Irregolare la gara per l'ampliamento dell'aeroporto di Siena, falso e turbativa d'asta, tra gli indagati Mussari del Monte dei Paschi. La follia di un pugile a Milano, lasciato dalla fidanzata, uccide a pugni una filippina che passava per la strada. La rivoluzione di Cesare Prandelli dopo il fallimento ai mondiali, il nuovo commissario tecnico della nazionale convoca in azzurro Amauri, Balotelli e Cassano, l'esordio martedì prossimo a Londra nell'amichevole contro la Costa d'Avorio. Bene, ascoltatori, all'800 24 0024 direi di andare con Emanuele D'Avellino. Buonasera dottor Cruciani. Dica. Innanzitutto le faccio i complimenti per la trasmissione che seguo sempre con grandissimo interesse. Io so che ci sono sicuramente argomenti più seri di quali discutere rispetto a quello, diciamo, del mio intervento, però vorrei esprimere una piccola modesta opinione, diciamo, in merito a un qualcosa che, di cui si è parlato ieri, alla proposta da parte del presidente della provincia, anche se non ricordo quale sia, provincia di Varese, provincia di Varese, se non sbaglio, la proposta della laurea honoris causa a Bossi. Esatto. Allora, io dico la verità, confesso che questa notizia mi ha fatto un po', come dire, accapponare la pelle, perché in effetti il ministro nella sua... Un attimo solo, i titoli del telegiornale della 7 in diretta, è iniziato con un po' di ritardo. Morto e 58 feriti a Napoli per il deragliamento del treno della linea circumvesuviana e molti passeggeri accusano al momento dell'incidente il macchinista parlava al cellulare, andava troppo veloce, afferma l'azienda di gestione, il ministero apre un'inchiesta. Giustizia, fisco, federalismo e mezzogiorno sono questi quattro punti su cui a settembre Berlusconi chiederà la fiducia per sfidare i Finiani. Se il programma non passa, dice il premier, andremo al voto. Bersani dà la linea al PD, dobbiamo liberarci di Berlusconi e facciamo alleanze con chiunque ci sta. La replica del ministro Alfano, parole inaccettabili e di inaudita violenza. Era stato appena lasciato dalla fidanzata, in preda alla rabbia, è uscito di casa e ha ucciso a pugni la prima donna che ha incontrato per strada, una filippina, il 25enne ucraino, pugile per hobby, è stato arrestato. La Russia continua a bruciare, Putin vara un nuovo piano per fronteggiare gli incendi che in questi giorni hanno provocato decine di morti e migliaia di senza tetto. Chiesto l'aiuto anche ai volontari, Mosca avvolta dal fumo, minacciati alcuni depositi militari evacuati dal Ministero della Difesa. Balotelli, Cassano e Amauri. Nelle prime convocazioni il CT Prandelli chiama in azzurro gli attaccanti ignorati dall'IPI per il Mondiale. 8 gli esordienti nell'amichevole contro la Costa d'Avorio di martedì prossimo. Eccoci qui, dopo i titoli della 7, eravamo con Emanuele D'Avellino che si è detto amareggiato per questa storia della laurea honoris causa. Oggi credo che il ministro Gelmini in qualche dichiarazione, se non sbaglio, appoggi questa candidatura, allora io... tra virgolette, comunque questa proposta, dicendo che la merita chi più di lui, se non sbaglio. Allora io dico questo qui, chi la merita più di lui? Mi sembra che sia in comunicazione, se non vado errato. Sì. Beh, diciamo che il ministro nella sua lunga carriera ha detto sicuramente tante cose, anche molte delle quali provocatorie. Però onestamente dico una cosa, io non posso mai dimenticare una dichiarazione che fece 7 anni fa, quando disse di voler prendere a cannonate le barche in arrivo degli emigrati. Insomma, si parla di poveri disperati che cercano di sfuggire a situazioni drammatiche. Io tra l'altro pensavo anche una sorta di contrappasso dantesco dove Boston, in avvicinamento alle coste americane, viene preso a cannonate da Obama. Sai qual è il problema, Cruciani? Che se... Perché Bossi dovrebbe arrivare con le barche vicine? Ripeto, parlavo di una sorta di contrappasso. Ho capito, ma perché si dovrebbe trovare trovare di fronte alle coste americane? Mi scusi. No, ho detto, immagino una scena del genere, visto che parlava di prendere a cannonate questi in arrivo, questi poveracci. Allora il problema, infatti questo le stavo dicendo, sono i drammi, non li vive sulla propria persona. Sì, vabbè, comprende... questo è un ragionamento che lei sta facendo sulla frase di Bossi. Secondo lei non merita una laurea di questo tipo? No, se la prendiamo. Sì, ma un po' chi se ne frega, Emanuele. È tutto ridicolo. Lei ha ragione, è tutto ridicolo. Però chi se ne frega? Non la buttiamo. No, è assurdo, no, non la prendiamo troppo sul serio. Non prendiamo tutte le cose sul serio. Sicuramente notizie più serie. Insomma. No, non notizie più serie. Non prendiamo tutto in maniera seria. Cioè, bisogna anche riderci sopra le cose. Guardi, io dico una cosa e concludo. Guardi, scusi. Io eliminerei le lauree honoris causa. Le eliminerei. Esatto. Io dico una cosa, concludo. Giusto un ultimo pensiero e la lascio. Scusi lo sfogo, però guardi, credo che i politici italiani debbano, come giustamente abbiamo detto, occuparsi di cose più serie piuttosto che dare riconoscimenti inutili a Bossi, perché se questo è un esempio di riconoscimento universitario, comunque diciamo, inizia a comprendere anche i problemi dei nostri atenei, ecco, e quindi ho capito. Grazie, Marco da Roma, buonasera. Sì, buonasera Cruciani. Dica. tolto, sì, finalmente ce l'abbiamo fatta. Io volevo parlare su Bersani. Sì, la sentiamo molto male però. Alessio da Mantova, buonasera. Alessio? Sì, buonasera. Buonasera, dica. Niente, io ringrazio intanto la signora Zanicchi per averci illuminato sulla pattona, che in Lunigiana invece è un altro, viene fatta con un'altra ricetta e con la farina di castagne. Come viene fatta? Con la farina di castagne, è proprio un altro tipo di piatto. Cioè la soletta viene fatta con la farina di castagne? Sì, esatto. Cioè è proprio un'altra, una cosa completamente diversa. Ma che piatto è la pattona? È un piatto unico? Sì, un piatto unico, viene servito un po' come una focaccia, si può mettere dentro lo stracchino, la ricotta, quello che uno preferisce. Viene fatto in un paese, nel comune di Fivizzano. Io però comune di Fivizzano, che è il comune dove è stato sindaco tanti anni, Sandro Bondi. Esatto, esattamente. Io avevo chiamato per un altro motivo in realtà, perché ho sentito il signore che è intervenuto prima sul giustizialismo, sul garantismo, sul fatto che non devono essere i giudici a decidere che fine si dovrebbe dimettere per la casa a Monte Carlo. Io volevo puntualizzare una cosa: sicuramente è giustissimo che non siano i giudici a decidere le sorti della politica, ci mancherebbe altro in un paese civile. Non devono essere neanche, secondo me, però, gli organi di stampa legati a questo o a quel personaggio, perché nel momento in cui c'è un dissenso, un disaccordo e vengono tirate fuori delle storie, delle illazioni, poi non entro nel merito perché comunque non sono informato ovviamente dei fatti, però chiaramente attenzione che non siano addirittura i giornali prima dei giudici a voler travolgere la vita politica, ecco tutto qua. Bene, grazie, pubblicità, torniamo subito. La Zanzara. Siamo qui alle 20.15, prima di sentire la situazione del traffico, oggi è venerdì, insomma una giornata particolarmente calda, una giornata di partenze, direi di andare a sentire Fabio da Milano. Fabio, prego. Sì, buonasera Cruciani. Dica. Volevo intervenire in merito a quello che si sta discutendo per quanto riguarda le eventuali elezioni anticipate. A me sembrava che nessuno avesse espresso un parere in merito all'importanza che in realtà avrebbe la Lega in tutto questo. Nel senso che secondo me quello che non sta emergendo è che le eventuali alleanze, diciamo terzo polo, non terzo polo, in realtà non stanno tenendo conto a quello che poi in tutta questa faccenda la Lega avrebbe come beneficio da questo. E che beneficio avrebbe? Di voti, lei dice? Secondo me sì. Queste sono però previsioni, non credo che dal punto di vista dell'alleanza potrebbe cambiare qualcosa. Ma secondo me il discorso proprio che dal punto di vista del centro-sinistra, che non sta offrendo, voglio dire, quello che alla fine anche gli stessi elettori del centro-sinistra si aspetterebbero da uno schieramento che dovrebbe opporsi, diciamo, a quello che sta succedendo adesso, secondo me alcuni non saranno in pochi, saranno quelli che fuoriusciranno, diciamo, usciranno dal partito anche PD e entreranno in quello che sarà la Lega, che secondo me alla fine come partito sta facendo una politica che se non altro è una politica, nel senso sta Fabio, lei sta dicendo, lei sta dicendo la Lega, se ci fossero elezioni anticipate, guadagnerebbe un sacco di voti. Vabbè, questo è quello che dicono tutti i sondaggisti. Adesso dove va a pescare i voti, se dal PDL o dal Partito Democratico, questo non lo so, certamente io credo al nord soprattutto dal PDL. Grazie, traffico, torniamo subito. 800 24 00 24, volata finale anche per oggi. La Zanzara. Via del campo c'è una graziosa, gli occhi grandi color di foglia, tutta notte sta sulla soglia, vende a tutti la stessa rosa. Via del campo c'è una bambina, con le labbra color rugiada, gli occhi grigi come la strada, nascon fiori dove cammina. Via del campo c'è una puttana, tutta notte sta sulla strada, nascon fiori dove cammina. Via del campo c'è una puttana, gli occhi grandi color di foglia, se di amarla ti vien la voglia, basta prenderla per la mano. Iva Zanicchi ha decretato il vincitore delle Ugole del Palazzo, il senatore Giampiero Scanu. Buonasera. Senatore? Pronto? Eccoci, buonasera, dove si trova? Buonasera, mi trovo ad Olbia. Ad Olbia, già in vacanza perché i lavori parlamentari sono chiusi. Esatto, sì. Allora, Iva Zanicchi le ha dato un voto altissimo. Ah, ecco, quindi sono stato promosso. È stato eletto, nominato vincitore della giuria degli esperti, che in questo caso è la giuria di un'esperta. E che esperta, Iva Zanicchi? Diciamo nominato, perché ormai in Italia le cose funzionano per nomine, non per elezioni. Coi nominati, diciamo, funziona. Ecco, sì, siamo tutti nominati, non eletti. Senta, ma perché lei ha scelto questa canzone? Ma io più che la canzone ho scelto di essere cortese nei vostri confronti, perché mi è pervenuto un invito. No, ma perché ha scelto De André? Mi sarebbe apparso essere un po' snobista non accoglierlo. No, ma questo lei ha fatto molto bene. Ho scelto De André perché è un punto di riferimento non soltanto di tipo canoro, ma soprattutto per ciò che ha cantato e scritto in tutta la sua purtroppo non troppo lunga vita artistica. Io leggo e canto Fabrizio da quando avevo 15 anni, quindi ormai da 40 anni. E dunque per lei non è stato complicato, insomma, no? Com'è? Non è stato complicato. No. Sono quasi cibato. E i personaggi di De André mi sono estremamente cari, quindi in relazione a questa simpatica iniziativa vostra vorrei con affetto dedicare questa sorta di vittoria ai personaggi di De André, che sono gli ultimi. Sì. Senta, senatore Scanu, ci vuole chiarire una volta per tutte? Sì. Insomma, lei ha lo stesso cognome del vincitore del Festival di Sanremo, no? Siamo soltanto di rimpettai. Solo di rimpettai, che significa? Sì, però conosco Valerio, lo conosco così di vista, mentre conosco i genitori, sono persone splendide, molto semplici, che non si sono montate la testa, che continuano la loro vita senza nessun tipo di civetteria o di sbandamento. E Valerio è un ragazzo dolcissimo che ha creduto tanto nelle proprie virtù canore e ci ha scommesso. E va bene così, insomma. Grazie. Allora, Scanu dedica questa vittoria ai personaggi. Ce lo di De André. Grazie a voi per questa simpatica iniziativa. Chissà che riesca un pochino a riconciliare con il sorriso che può aver indotto una classe politica che non è poi così tanto amata con una società civile che in verità meriterebbe molto di più. Speriamo, grazie, buone vacanze. Grazie a lei, arrivederci a lei, grazie. Via del campo c'è una graziosa, gli occhi grandi color di foglia, tutta notte sta sulla soglia, vende a tutti la stessa rosa. Via del campo c'è una graziosa, gli occhi grandi color di foglia, tutta notte sta sulla soglia, vende a tutti la spessa rosa. Via del campo c'è una bambina, via del campo c'è una puttana, gli occhi grandi color di foglia, se di amarla ti viene la voglia, basta prenderla per la mano e ti sembra di andar lontano. Lei ti guarda con un sorriso, non credevi che... Va bene, non mi lascio trascinare. Luigi da Torino, siamo quasi in conclusione di questa settimana. Sì, buonasera. Dica. Io sono rimasto, volevo solo dire che sono rimasto un attimino allibito dal comportamento del parlamentare di ieri sera alla trasmissione della Berlinguer in tarda serata su Rai 3. Perché? Da Guadagno, mi sembra. Perché? Chiami. come ha trattato, come si è permesso di alzare la voce e trattare quell'operaio che peraltro si difendeva benissimo, non è una difesa mia di questo operaio dell'azienda chimica in crisi in Sardegna, che aveva già trattato in puntata Santoro qualche mese fa. Sì. Questo personaggio mi sembra che abbia, anche lei l'abbia già intervistato, sul, se non ricordo male è lo stesso parlamentare che si diceva che gli stipendi dei parlamentari sono abbastanza bassi, insomma non sono così elevati da creare scandalo. Mm. Mi sembra veramente, adesso non voglio raccontare il fatto, se qualcuno l'ha visto. No, ma noi abbiamo mandato in onda degli stralci o comunque delle parti di quella, di quella trasmissione, però Luigi devo dire la verità. No, aspetti, il concetto è questo. Qual è il concetto? È troppo cioè lui si permette di dire a un operaio che l'azienda per la quale lavora è in perdita e quindi deve essere chiusa, questo è il concetto. Sì, no, ma la discussione si è animata quando il signor Marongio, non so come si chiama, della Vinils, ha detto c'è gente che è in vacanza e che è già in vacanza, riferendosi credo ai parlamentari, invece noi siamo qui disoccupati, sì. Non ci possiamo veramente andare in vacanza. La demagogia che secondo Stracquadagno c'era sui disoccupati gli ha fatto girare un po' le scatole. Guardi, anch'io non sopporto la retorica sui disoccupati, licenziati, l'azienda che non può fare questo, per cui voleva semplicemente sapere, Stracquadagno forse l'ha fatto in maniera sbagliata, se quell'azienda e quei prodotti fossero redditizi oppure no. Esatto, a parte che è grave che un parlamentare si debba informare, cioè posso non saperlo io che non faccio quello di mestiere, ma un parlamentare che in Parlamento... Vabbè, non è che sa tutto un parlamentare, non sa tutto. Non fa tutto, ma un'informazione magari può prendere da chi segue a parte il Ministero dell'Economia. Potrebbe anche, tra virgolette, interessarsi prima di accusare con una maniera così violenta. Sì, questo è vero. Oltretutto, a me quello che non va, questo magari non sono d'accordo, cioè... Non mi è sembrato una cosa così violenta, però mi è sembrato uno scambio molto acceso di opinioni, che in una trasmissione è abbastanza legittimo, non mi è sembrato adesso uno scambio violento. Io ho trovato molto io personalmente... Lei dice la violenza per il fatto che uno abbia rivolto a dei disoccupati, degli operai che stanno facendo una battaglia, abbia parlato in modo così incalzante. No, è qua la differenza. Uno che fa che cosa? Fa il parlamentare, sì. Che è praticamente una azienda che non ha ricavi. Sì, ed però... è costantemente... genera solo costi. Sì, però il discorso spiegare agli altri di fare utili. E questo che mi sembra molto ridicolo. Chiudiamo così, grazie Luigi, grazie dell'intervento. 20 e 28, riprenderemo tutto la settimana prossima alla Zanzara, sempre alle 18 la Zanzara estiva. Ciao. Ricordati che devi morire. Com'è? Ricordati che devi morire. Va bene. Ricordati che devi morire. Sì, sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa, non mi preoccupare. Radio 24. La passione si sente.